Letture di Radio 24. Anticipo rispetto alle consolidate tradizioni, anche quest'anno nel campionato di calcio di Serie A sono iniziate le manfrine delle partite anomale. Così a 7 partite dal termine la giostra del risultato sospetto è già partita. Il primo a porsi il problema era stato Cassano. 3 settimane fa, dopo, ma forse anche durante, l'inatteso pareggio di San Siro tra la prima e l'ultima della classe. Il Bari, già praticamente retrocesso, ha il diritto di continuare ugualmente a giocarsela? O avrebbe invece il dovere di regalare i 3 punti a chi gli capita sul cammino? Ma se Cassano, nella sua doppia veste di barese e di raffinato intellettuale, si era limitato a discettarne col portiere Gillet, domenica a Parma, dopo il gol di Alvarez che ha fruttato una vittoria attesa dal 6 gennaio, è toccato ai parmigiani approfondire la questione. In maniera più spiccia, se è vero che Morrone e Paci hanno prima apostrofato e poi minacciosamente avvicinato Marco Rossi, difensore del Bari, colpevole di essere parmigiano puro sangue e cresciuto nel Parma. Il malcapitato Rossi, già noto alle cronache di stagione per aver incassato 2 cazzotti d'autore, il primo da Chivu e il secondo da Ibrahimovic, si è difeso invocando il suo buon diritto a comportamenti da professionista, anziché da sentimentale. Più o meno come quelli tenuti sabato nell'anticipo di Brescia dai difensori del Bologna, che forse per evitare una brutta figura ai bookmakers, scommesse sospese da giorni sul segno 1, hanno avuto quel che oggi si dice un approccio non particolarmente aggressivo alla partita. Mentre nel linguaggio di un tempo si sarebbe detto che avevano assistito con discreta indifferenza ai 2 gol segnati dal Brescia nei primi 9 minuti. Se poi aggiungiamo il pareggio tra Chievo e Sampdoria, la cui quotazione era sospesa da giorni, senza reti ma soprattutto senza tiri in porta, la sensazione è che in questa stagione ci si stia portando avanti. Se soltanto con i calcoli o anche con le combin, tocca alla Procura federale stabilirlo. Nel caso di Verona, gli ispettori appositamente inviati hanno parlato di gara svolta con apparente regolarità, ma con scarso impegno agonistico. Niente di inedito, questo è vero, ma in largo anticipo rispetto alle tradizioni consolidate, perché alla fine del campionato mancano altre 7 giornate. Lo stesso Gattuso avrebbe potuto rimandare a più tardi il regolamento di conti con Leonardo, ma dopo quel gol arrivato al primo minuto, come tenersi ancora nella strozza l'insulto al suo ex allenatore? Fascia da capitano al braccio, come già nell'affettuoso faccia a faccia con Joe Jordan, toccava o non toccava a lui farsi interprete del sentimento di uno stadio intero. La fretta a volte è cattiva consigliera, ma è vero anche che il fair play non può attendere. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Via alla giostra del risultato sospetto di Gigi Garanzini dal Sole 24 Ore di martedì 5 aprile. Letture di Radio 24. Del folle a Muammar Gheddafi? Secondo la Columbia School of Journalism è contro la deontologia della professione giornalistica. Così tornano alla mente quei 2000 psichiatri che nel 1964 giudicarono il candidato repubblicano Barry Goldwater come uno schizofrenico, con tanto di pubblicazione sulla rivista Fact. Prima di dare del pazzo psicopatico a Muammar Gheddafi, i giornalisti dovrebbero pensarci almeno 2 volte. E non perché il dittatore libico abbia già resistito a quasi 20 giorni di bombardamenti da parte delle maggiori potenze mondiali. Piuttosto a consigliare una doppia dose di cautela, ci ha pensato uno dei templi sacri del giornalismo anglosassone, la Columbia School of Journalism. Dai serial killer alle celebrità, passando per i dittatori, ha scritto Curtis Brainard sulla rivista della scuola, quest'anno abbiamo già dovuto assistere a una dose di psichiatri da poltrona che supera la soglia di sopportazione. Un po' di prudenza, sostiene pure il New York Times, la dovrebbero imporre innanzitutto i precedenti storici. Tracciare profili psicologici a distanza è infatti una delle passioni dei servizi segreti americani. Una passione contagiosa, che grazie a gole profonde e analisti vari viene trasmessa direttamente alle pagine dei giornali. Risultato, nel primo di questi ritratti psicologici, quello che l'OSS, predecessore della CIA, fece di Adolf Hitler nel 1940. L'attenzione era dedicata quasi esclusivamente agli istinti infiniti di autoflagellazione del Führer, al suo panico omosessuale e ad altri complessi edipici vari. Ancora all'inizio degli anni 90, i lettori americani si convinsero, sempre sulla scorta di autorevoli esperti, che Saddam Hussein fosse in fondo una persona pragmatica, disposta ad arrendersi una volta messo sotto pressione. Ci sono poi volute due guerre del Golfo per capire che il profilo psicologico non era del tutto esatto. Se non fossero sufficienti gli insegnamenti della storia, buona consigliera sarebbe comunque la deontologia. Dalla Columbia School of Journalism ricordano infatti che ogni redazione dovrebbe rispettare la Goldwater Rule. La regola è intitolata a Barry Goldwater, candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti negli anni 60. Nel 64, infatti, la rivista Fact contattò 2000 psichiatri, chiedendo se ritenessero il candidato conservatore adatto a governare. La metà dei 2000 medici che risposero si espresse negativamente, aggiungendo giudizi espliciti sull'allora senatore americano, ritenuto immaturo, impulsivo, paranoico o perfino schizofrenico. Goldwater fece causa a Fact per diffamazione e vinse. Da allora, la American Psychiatric Association ha modificato il suo codice deontologico, dal quale si evince che non è etico, per uno psichiatra, emettere diagnosi, tanto più se a scopo divulgativo, senza aver visitato il paziente. I giornali, spiegano dalla Columbia, devono fare la loro parte, evitando inutili sensazionalismi. Meglio piuttosto fare tesoro delle parole di Robert Gates, ex direttore della CIA e attuale segretario alla difesa dell'amministrazione Obama, che una quindicina di anni fa spiegò come non lo riempisse di fiducia il fatto di compiere una diagnosi su qualcuno che non ha mai visto, per di più a 5.000 miglia di distanza. Avete ascoltato la lettura dell'articolo In America dire folle a Gheddafi è contro la deontologia giornalistica di Marco Valerio Loprete da Il Foglio di martedì 5 aprile. L'abuso delle nuove tecnologie è sempre dietro l'angolo. Così arriva il momento in cui occorre darsi delle regole per evitare di sconfinare nella dipendenza e nella confusione di Internet. Tony Schwartz prova a dettare le sue 5 regole d'oro per riuscire a staccare o almeno provarci. Prestigiosa firma del giornalismo americano, Tony Schwartz è noto anche in quanto fondatore di The Energy Project, una società che organizza corsi per insegnare ai quadri come ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Forte della sua autorevolezza, Schwartz ha puntato il dito nel corso di una lezione alla Interactive Conference di Austin contro gli effetti dell'abuso delle nuove tecnologie sul nostro modo di vivere e lavorare. Il suo messaggio è sintetizzabile in 5 regole auree. Imparate a dire di no. Siete travolti da mail, tweet, conferenze, meeting, articoli da leggere o scrivere, aggiornamenti di stato. Chiudete il rubinetto, selezionando gli impegni in base alla loro reale importanza. Non riuscite a tenere a mente tutto ciò che dovete fare? Dedicate meno tempo a scrivere elenchi di cose da fare e più tempo a ragionare su come farle. Se ne avrete dimenticato qualcuna, vuol dire che non erano tanto urgenti. Fate una cosa alla volta. Chi pratica il multitasking forse fa più cose, ma le fa male. Tenete un diario delle vostre idee e consultatelo periodicamente per verificare quali si sono dimostrate valide e quali no. Il tempo aiuta a ridimensionare i facili entusiasmi. Imparate a staccare. Se state leggendo un libro o scrivendo un testo, spegnete il cellulare e non consultate la posta elettronica e gli aggiornamenti di stato finché avrete finito. E quando rientrate in casa a fine giornata, spegnete tutto, sottraendovi a qualsiasi richiesta di comunicazione a distanza. In un articolo sull'Huffington Post, in cui espone questo pentalogo per sopravvivere alla filosofia dell'always on, Schwartz racconta con un tocco di autoironia che subito dopo aver finito la conferenza ha letto i commenti che alcune persone che gli era capitato di riconoscere nel pubblico avevano postato sui loro blog, su Twitter o su Facebook. Dopodiché commenta: per riferire in tempo reale quanto stavano ascoltando, dovevano per forza smettere di prestarmi attenzione, perdendo il senso del ragionamento. Come a dire: so benissimo di predicare al deserto. Pessimismo giustificato. Chiunque abbia provato a staccare sa quanto sia diventato difficile riuscirci davvero. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Le 5 regole per sopravvivere all'abuso di Internet & Co. di Carlo Formenti, dal Corriere della Sera di domenica 3 aprile.